got to give a little. Indovina chi viene a cena. Take a little. Di Valentina Furlanetto. That's the glory of love. Oggi è stato uno strano giorno. Credo anzi di non esagerare affermando che è stato un giorno veramente straordinario. Mi è stato gentilmente spiegato da mia figlia che aveva intenzione di sposarsi e che il suo promesso era un giovane uomo che non avevo mai visto e oltretutto negro. Beh, mi pare giusto riconoscere che ho reagito a questa notizia nello stesso modo in cui avrebbe reagito qualunque padre normale, a meno che la figlia non fosse negra anche lei. Chiunque potrebbe obiettare, non a vanvera, contro questo vostro matrimonio. Ma voi siete due esseri perfetti, che vi siete innamorati e che purtroppo avete una diversa pigmentazione. E adesso io credo che qualunque obiezione possa fare un bastardo contro la vostra intenzione di sposarvi. Solo una cosa ci sarebbe di peggio. E cioè che voi due, sapendo quello che fate, sapendo ciò che vi aspetta e sapendo quello che sentite, non vi sposaste. Beh, Tilly. Che cavolo aspettiamo a mangiare? Cosa aspettiamo a mangiare? Buon pomeriggio da Valentina Furlanetto. Io mi metto sempre a quest'ora, di solito il grembiule, per iniziare la puntata di questa trasmissione che tratta di cucina, di gusti, di odori e spezie, ma anche di pregiudizi e quindi di contaminazione di culture, parlando dei nuovi italiani, gli italiani che hanno un'origine straniera. Molti di loro lavorano ormai da anni in Italia, molti di loro sono imprenditori in Italia. Magari alle loro dipendenze hanno anche degli italiani. Per questo ogni anno viene assegnato il MoneyGram Award, un premio all'imprenditoria immigrata in Italia assegnato da MoneyGram International, una società leader nel settore delle rimesse. È un premio nato per promuovere l'eccellenza delle oltre 400.000 aziende gestite da cittadini stranieri, dedicato a quanti hanno mostrato coraggio, capacità di visione e leadership nel fare impresa nel nostro paese. Tra l'altro scade a brevissimo il bando 2013, quindi se siete l'ascolto, se siete imprenditori di origine straniera, affrettatevi a iscrivervi perché scade il 15 di maggio. Gli stranieri in Italia hanno un forte spirito imprenditoriale. Secondo gli ultimi dati di Unioncamere, rispetto al 2012 il numero delle imprese nate e gestite da stranieri è cresciuto di 24.000 unità. Nello stesso periodo, pensate, le imprese avviate invece da cittadini italiani non hanno superato le 19.000 unità. Quindi, nonostante la crisi, è un'imprenditoria che cresce. Questo ci fa senz'altro piacere. Oggi viaggiamo da Cuba al Madagascar, quindi climi caldi e anche delle signore, per parlare di ricette e contaminazioni imprenditoria. La prima signora che presento, alla quale do il benvenuto, buon pomeriggio, a Ira Betancourt. Buon pomeriggio, grazie. Grazie per essere con noi, Ira. Lei è una imprenditrice che ha vinto l'edizione 2012 nella categoria innovazione, così? Sì, sì, è così. Cioè, allora, io ho un negozio di sartoria, faccio le confezioni, trasformazione anche dei capi, riparazione, e poi per me la chicca mia in realtà sono la creazione dei miei abiti, tanto maschile come femminile, quindi anche bambini, insomma creo anche dei miei abiti. Come si chiama l'atelier? L'atelier si chiama Sartoria Betancourt e sta a Roma. Tra l'altro avete un originale servizio di sartoria personalizzata a domicilio, no? L'atelier, sì. Da te nell'ora del tè. Allora, del tennis, quindi è molto informata lei. Sono informata, si faccio la giornalista. è giusto che sia così. E niente, questa diciamo che attività collegata è anche per una motivazione, esigenza mia, anche di uscire anche dalla teliera, andare anche verso le signore o le signore che vogliono soffrire del mio servizio. Quando è arrivata a Roma? Esattamente nel 93. Da Cuba, prima, no? Sì, diciamolo, sì, subito da Cuba. Sempre, da Cuba, di Santiago de Cuba per la precisione. E quindi prima sono stata via Ripeta, lì Accademia di Arte, come auditrice per rinforzare le scuole di pittura che già facevo a Cuba. Dopodiché mi trasferì qua perché mi sono sposata nel 93 e di allora sto qui, sono anche la cittadinanza italiana. Quindi è italiana a tutti gli effetti. Sì, sì. Ho visto che tra l'altro lei fa sartoria, confezione abiti di sartoria, di alta sartoria, partendo anche dal riciclo dei materiali alternativi come la plastica, la carta. Sì, esattamente. Perché lei nasce come geometra in realtà. Sì, già 9 anni io cucivo. Quindi geometra perché dovevo studiare, non era la grande passione della mia vita, però dovevo studiare perché essere sarta non era proprio un mestiere, diciamo, che presentava una vita, insomma, sì, era una cosa importante, però non come diciamo che importante era avere un diploma. La cucina cubana rappresenta un misto delle culture gastronomiche spagnole, caraibiche e africane. Dalle prime due prende a prestito soprattutto le tecniche di cucina, mentre la terza si fa sentire nell'uso delle spezie. È comunque da citare che anche la cucina cinese ha avuto una certa influenza nell'alimentazione cubana, soprattutto nell'area dell'Havana. Il piatto nazionale è l'ajaco, una minestra a base di patate, banane, mais, manzo, pollo e carne secca, seguito dal riso con gris. Poi c'è il fufu, un purè di banana condito con mojo, olio e aglio. Le mariquitas o chicharritas, banane fritte che sanno di patatine fritte. E i tostones, fette di platano o fongo, un tipo di platano meno pregiato, spesse 2 centimetri circa, che sono fritti per un po', tolti dalla frittura, schiacciati tra 2 foglie di cartone e poi rifritte ancora. Tipico prodotto del paese è la manioca, simile alla patata però di colore bianco. Il rum è la bevanda nazionale, dal colore bruno dorato, apprezzata in tutto il mondo. Deriva dall'estratto della canna da zucchero, il guarapo, dal sapore forte e aspro. Cuba è anche molto famosa per le numerose distese di caffè, dalla miscela molto scura, aromatica, e per il tipo di tostatura, meno forte di quello italiano. Con tutti i frutti cubani si preparano dei dessert. Tra questi, i più appetitosi sono quelli fatti con bucce di guayaba, il cocco candito, le marmellate di guayaba e papaya, le marmellate e le macedonie d'arancia e ananas. Con questi dolci si serve solitamente del formaggio giallo oppure cremoso. Del resto, tutti i dolci di farina contengono formaggi cremosi e tutte le marmellate scaglie di formaggio giallo. E che cosa succede a un imprenditore straniero che vuole fare l'imprenditore in Italia? È difficile, è facile rispetto agli italiani, secondo lei? Io penso che quando si vuole fare una cosa, se deve fare una cosa, non è né difficile né facile. È semplicemente indirizzare quello che uno vuole. E nel mio caso ho lavorato tanto, ho fatto tanta gavetta e ancora nel mio piccolo io lo faccio tuttora perché mi informo, studio, mi aggiorno. Quindi penso che è una questione di quello che uno vuole fare e dell'intesa. Poi le cose non si fanno mai da solo, deve anche appoggiarti anche di persone valide. E poi se uno ha il talento, anche l'estero delle cose, questo si fa anche con lo studio, con le circostanze. Penso che tutto un insieme di cose, penso che l'importante è l'impegno. Y así pasan los días y yo desesperado y tú contestando quizás, quizás, quizás. Estás perdiendo el tiempo pensando, pensando. Siamo qui in compagnia di Ira Betancourt, che ha vinto il premio Innovazione per il Monogram Award dell'edizione 2012 per i migliori imprenditori stranieri in Italia. Che cosa ci cucina oggi pomeriggio? Oggi vi cucino riso con gris. Allora, è il riso con gris perché è un insieme del riso e fagioli neri. È un piatto cubano. Un piatto cubano, quindi un piatto criollo, no? Criollo in realtà. È una cosa che cucina spesso in Italia? No, devo dire di no. Diciamo che mi piace di più farlo in compagnia di amici, perché è anche un po' impegnativo, no? E quindi... a Cuba è molto così popolare, comune, sì, cucinarlo. Diciamo che è il principale piatto, no? Per quello si chiama piatto criollo. Quindi il riso e il fagiolo sono la base. E poi ci sono, per esempio, c'è il maiale, anche il pollo, però a me piace di più abbinare come carne il maiale. Senta, immagino un piatto che le ricorda del suo paese, dove torna qualche volta? Sì, torno molto spesso, quindi adesso con la sartoria ho più obblighi e più impegno, quindi posso andare soltanto una volta l'anno, prima ci andavo più spesso. Però so che è un'appassionata anche della pasta alla matriciana. Sì, questo sì. Non so se si può dire amatriciano o matriciana, credo che è corretto se è matriciana, però mi piace. Beh, lei è più romana di me, quindi lo saprà meglio. Quindi diciamo che è una pasta italiana che io veramente adoro. Quizás, quizás, quizás. Y así pasan los días y yo desesperado y tú contestando quizás, quizás, quizás, quizás, quizás. Va bene, allora diamo le ricette di Ira Betancourt, che ringraziamo per essere stata con noi. Grazie, buon pomeriggio. Grazie a voi. Riso congrì. Ingredienti per 4 persone. 250 g di riso, 1,5 etto di fagioli neri, un peperone rosso e uno giallo, cipolla, cumino, alloro, olio, sale, peperoncino quanto basta. Lessate i fagioli neri dopo averli messi a bagno per una notte con cumino, alloro e sale. Scolateli tenendo l'acqua di cottura. Lessate il riso nell'acqua dei fagioli neri. In una grossa padella friggete con olio una cipolla e i peperoni tagliati a julienne. Appena i peperoni sono cotti, nella stessa padella mettete il riso scolato e i fagioli neri. Aggiustare di sale, aggiungere dell'altro cumino e alloro, mantecare un attimino e servire. Soy una raya nel mar, fantasma la ciudad, mi vida va prohibida, dice la autoridad. Solo voy con mi pena, sola va mi condena. Correré mi destino por no llevar papel. Perdido en el corazón de la grande Babilón. Me dicen el clandestino, yo soy el quiebraley. Siamo qui in compagnia di un'altra ospite imprenditrice. Sentite già un odore, un profumo di spezia, di vaniglia. Beh, siamo in Madagascar con Edith Yaomazava. Ho pronunciato bene il suo nome? Sì, benissimo. Buon pomeriggio, brava. Innanzitutto, buon pomeriggio. Buon pomeriggio. Grazie per essere venuta a trovarci, a cucinare con noi. Adesso racconteremo un po' del suo lavoro, del suo paese, ma appunto c'è un forte profumo di spezie. Come mai, Edith? Perché provengo dal Madagascar e sono in Italia da 15 anni, quindi vi porto anche il mio profumo, perché non posso rimanere senza. Certo, e poi perché ha fondato una società, lo dico io, che importa spezie di alta qualità provenienti prevalentemente appunto dal Madagascar. Avendo questa piantagione delle spezie che abbiamo là giù, che è già tramandata da quarta generazione, io ho pensato aprire un piccolo azienda per promuovere questo. E quindi ha iniziato a importare spezie, in particolare la vaniglia, la no? La vaniglia. Da dove? In Madagascar, nel Cotest del Madagascar, in pratica nel nostro piccolo villaggio, noi abbiamo questa piantagione. Cosa ha deciso di cucinare per noi stasera, oggi pomeriggio? Ho deciso di cucinare in quale il mio piatto preferito, cioè il pollo al cocco, un piatto molto famoso in Madagascar, si chiama il malgasce, aku aku sivuanio si chiama. Si può anche mettere un po' di vaniglia, però la base soprattutto del curry, e poi alla fine di cottura, secondo i gusti, si può anche mettere la vaniglia, secondo me si combacia moltissimo, è quella che faccio sempre, è molto piaciuto. Lei è arrivata, immagino, diceva per amore, se non sbaglio, ma anche per poi trovare fortuna. Si è sposata con un italiano? Sì, con un italiano, un piemontese, perché sono di Torino. Mi ha portato qua un semplice, mi ha detto che dobbiamo venire in Italia per fare una passeggiata. In pratica ho ancora la valigia là vicino alla porta per ritornare, invece è già passato 15 anni e non sono mai più ritornata. Una passeggiata lunga, una passeggiata... è lunghissima sta passeggiata. Che continua. Una passeggiata a vita, cosa diversa. E le è piaciuta da subito l'Italia? All'inizio no. Perché Madagascar è un paese molto caldo, la gente sono tutti sorridenti, anche nonostante la povertà, un altro tipo di vita, no? Sì, e poi a un certo punto sono arrivata in Piemonte, quindi dal caldo al freddo, sono trovata malissima e per quello ho detto o devo fare un sacco di bambini per farmi passare il tempo devo proprio cercare qualcosa da fare, quindi ho fatto tutte e due, quindi in questo momento non c'è neanche più tempo di ridere, di dormire, di scherzare. Quindi insomma sì. Per così colmare la nostalgia del caldo, del, anche del calore di, che ci raccontava del suo paese, ha fatto molti bambini e poi si è inventata un'attività imprenditoriale. Ha mai subito dei pregiudizi sia come persona che viene dall'estero che anche come imprenditrice? Certamente, essendo straniera qua in Italia non è facile. Ma ci racconta un episodio di pregiudizio che ha subito? Andando al supermercato, andando a scuola, la gente quando ti vede, ad esempio nella piccola cittadina dove vivo, perché vivo in una città che si chiama Moncalieri di Torino, chiedendo una semplice informazione, non è che tutti ti diano un'informazione perché magari vedendoti straniera, magari non ti capiscono, magari la gente vede. C'è un po' di diffidenza. Sì, sì, c'è questa, non mi piace neanche di pronunciare, però razzismo esiste proprio, Anche adulti dicono, va dal suo paese, ritorna al suo paese, che cosa fai qua? Beh, insomma, anche... i suoi compaesani oggi la sentiranno in onda a Moncalieri, e noi non l'avremmo chiamata se fosse stata italiana, quindi il fatto di essere di origine straniera e italiana adesso, e anche la vincitrice assoluta del premio del 2010, di questo premio per l'imprenditoria, diciamo che è una bella soddisfazione, no? Senta, un'ultima cosa, si sente italiana o ancora si sente del Madagascar? E soprattutto i suoi figli si sentono italiani, immagino, sono italiani? Sì, italiani, sì sì, piemontese malgascia, italo malgascia, mi sento tutte e due, non mi sento troppo diverse da voi in pratica, però io la mia cultura rispetto molto e ci tengo. E non vorrei mai essere una cosa che per me è sacra, e come anche quando sono qua in Italia rispetto anche il vostro, quindi penso che facendo tutte e due le cose si vive meglio. Certo, così possiamo unire anche i nostri gusti e le spezie, gli aromi, la vaniglia di cui ci ha parlato. Adesso riepiloghiamo la ricetta in questa scheda. Pollo al cocco con vaniglia. Un pollo di circa 1,2 kg, peperoncino in polvere, sale, un cucchiaio di olio di arachidi, due spicchi d'aglio tritati, una cipolla tritata, un peperone liberato dai semi e tagliato a cubetti, 20 g di zenzero tagliato fine, una stecca di vaniglia, 3 decilitri di latte di cocco, 4 pomodori maturi, pelati, liberati dai semi e tagliati a cubetti e 3 cucchiai di cocco fresco grattugiato. Tagliare il pollo in 8 parti. Condire con sale e peperoncino. Scaldare l'olio in una casseruola e rosolare la carne a fuoco vivo, poi levarla ed eliminare il grasso in eccesso. Far dorare cipolla, aglio, zenzero e peperone nella casseruola. Aggiungere il latte di cocco. Raschiare il midollo dalla stecca di vaniglia, poi mettere entrambi nella casseruola. Aggiungere il pollo rosolato e i pezzetti di pomodoro e lasciare cuocere coperto a fiamma media per 30 minuti. Addensare la salsa e servire con riso. La puntata termina qui, io ringrazio moltissimo la nostra ospite, l'imprenditrice che è stata premiata con questo Moneygram Award. Grazie per essere stata con noi, buon pomeriggio. Buon pomeriggio, arrivederci. Ringrazio in regia Filippo Aureggi, mi trovate anche su Twitter @Valfurla, trovate le ricette sulla pagina del programma all'interno del sito internet di Radio 24. Buon appetito a tutti, buon pomeriggio, ricordate, a tavola come nella vita i gusti cambiano. You've got to give a little, that's the glory of a